Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Mi si abbascia le volte. Mi abbascio, non mi intendi? Sì, con quella voce che non ti sente. Buonasera Claudio, cosa sei, adirato? Sì. No, assolutamente, stavo facendo cose, metterlo a posto, alcune cose qua negli armati. Io mi stavo pulendo tutta la casa, mi ho finito adesso, aspetto che asciughi il bagno, poi mi rimetto a posto tutta la roba che ho tolto. E andava così, dai, finito adesso. Stamattina non ce l'ho fatta proprio, era pezzi. Già, no, stavamo a posto un po' gli armadi della roba che non metto più. Così martedì la metto nei cassonetti quelli gialli, capito? Se no sono armadi pieni di roba, c'è ancora roba da lavoro, non serve a niente. Un po' di spazio e continuo a farmi male questa schiena. Adesso però se stanotte mi prendo una bustina, qualcosa, scherzo, ma dimmi tu. Ho risolto con il piede, con i plantari, e mi ha aumentato il mal di schiena. In modo sbagliato magari che di camminare e ti ha ripercorso lì. E anche a me, non ti credere che stia bene di schiena. Ogni tanto un dolore mi viene, non dico che sia fisso, però ogni tanto se arrugginendo ci stiamo e poco di va. Stavo guardando le caratteristiche della Greenmaster. Vento a 160 km orari registra. Su quello non ci piove. No, dipende sempre dove è montata, Gian. Sempre dove è montata dipende, capito? Perché un vento a 160 km orari può essere preso in una maniera diversa da come scrivono loro. Secondo me scrivono coglionate, però prendiamolo per buono. Vabbè, io ti ripeto, la matta va quando arrivi a Pascoli, che ha fatto quell'uragano che ha disintegrato Sassari, manco mossa, quindi io continuo a essere solidale per la Mantova. Poi, per carità, a chi piace quell'antenna, a me non piace né esteticamente né niente. Idem, come so, anche a me non mi ha fatto nessun danno, ma già c'erano anche 9 tiranti. Ma tu consigli che io non abbia tiranti, non ne avevo via Pascoli, non ne ho neanche qua. Io ho un piantone buono e un tubo d'acqua, basta, a 4 metri, ho finito. Sta fatto bene, ma non ce n'è bisogno. Come dice Giulio, in quel contesto lì sono d'accordo con lui. Se è montata bene, non ce n'è bisogno di tiranti. Se poi, purtroppo, nel tuo caso, come abbiamo già verificato, non ci voglio più rientrare in questo discorso, se no diventa ogni storia, ogni volta monotono il QSO, lì è falatino e tiranti ci vogliono, punto e basta. Sì, così. Oh, yeah. Vabbè, rilassiamoci un po' Claudio, ma che poi ci tocca. E infatti, cos'è sta foto? Sì, la foto mi ha mandato dell'antenna che ha già fatto Giulio. La foto della sua antenna? E la foto della Mantova Turbo. Qua entra dentro. È così. Va bene. Io la Mantova Turbo, questo sistema che c'ha di radiale, a me non piace, molto meglio quello della Mantova 1 e della Mantova 5. Ma Claudio, girando ho trovato la Mantova 1 e la Mantova Turbo, ma la Mantova 5. 150 euro una e 143 euro 45 l'altra. È buono, è in una ditta che ce le ha, capito? Sì, già, prima di affrontare la spesa facciamo questa. Se non ti dovesse andare bene, che non sei soddisfatto, cioè, ne dubito, la prendi nuova, cosa vuoi dire? Infatti. Ah, prima vediamo con questa qua se ne vale la pena, dai. Ma penso che vada bene, se l'è tutta pulita e cosa, non c'è niente da... La molla sarà da regolare. La molla io l'ho già fatta a 7 cm, pulita, ho rifatto tutto l'avvolgimento nuovo, cos'è pulita? C'è tutto nuovo durante connettore, avvolgimento, foro nuovo, col messo il mattice per entrare l'acqua e ha rifatto tutta nuova l'antenna. Siamo montato il garaggio. Cosa? La molla è nuova. L'ho rifatta tutta nuova, tutta pulita, tutta. È sempre un'antenna usata però. È in buonissime condizioni. E si è anche nato con la camicia. Sei nato anche con la camicia. Perché ho recuperato anche il radiale. Quelli malati a Gianfranco sono messi un bel male. Ne ho recuperato altre quattro che sono molto meglio. In fibra di vetro. Quindi si è nato anche con la camicia. Ma boh, va bene così. Andare. Quella vernice, quella per passare sopra i radiali, dove la posso prendere? Gliel'ho già latta io, è tipo una lacca già, gliel'ho già latta io, li ho puliti, senza tela, puliti con lo straccio umido, capito? Una rettina umida, tipo la acciaio, puliti, sono bianchi bianchi e poi gli ho dato una passata di questa lacca, è una lacca, mi cosa pensi che sia? È una cera lacca, ho capito. E vabbè, li fa la protezione. Come stavo dicendo, ti devo comprare anche l'acciaio, perché così lo uso per lucidare il tubo. Te l'ho detto, quando io te lo scendo, nel frattempo che io monto il piantone, che smontiamo quella là, tu 2 minuti le dai una passata dell'acciaio e una passata di straccio, senza mettere grasso, senza mettere niente. Perché poi ci dobbiamo lavorare, il grasso lo mettiamo nelle fascette, capito? Pulisco con l'acciaio e col CRC, ne metto un goccio di CRC e l'acciaio, sai come la fa, lucida, poi gli faccio lo straccio e esce tutto il nero. Ehi, vabbè, io al piantone ho passato la tela, quella leggera, la carrozziera e poi lo straccio. Già va bene. E vabbè, quello poi lo vediamo, dai. Oggi è una bella giornata, minchia, mi stava tentando, lo so, come fare a fare casino di domenica. Una bella giornata stamattina, veramente. Te l'ho spiegato, c'è quello che suona al pianoforte dei locali, che abita nel portone a fianco. E praticamente quello lì torna di notte, verso le 4 di mattina, torna sempre da lavoro. Quindi se lo disturbiamo venerdì, sabato lavora e la domenica pure. Meglio non disturbarlo. Peccato, guarda, anche domani mattina. Non avevo nessun impegno, ma oggi era micidiale, bellissima giornata, non c'era un filo di vento, infatti sono salito su a casa, mi ho controllato i tiranti, ho fatto 2 registrazioni delle aste di polo, ho fatto 2 fesserie, ho messo il grasso nei cosi, nei connettori, insomma, giusto per passare la mattinata. Ma era veramente una bellissima giornata, peccato veramente, vabbè dai. Facciamo mercoledì già, intanto siamo pronti, no? Non c'è problema, un giorno in più, un giorno in meno. Oia. 2 ne sono un attimi. Oi, Matto Giù, buonasera. E Giù, io il montante, il piantone della Mantova Turbo preferisco più in plastica, capito? In plastica. Questo è tutto in alluminio duro, pieno, è molto ma molto più resistente a quello della Mantova 1. Ciao qua, ciao Gianni, hai visto, ho montato la fotografia per farti vedere la condizione della Mantova Turbo mia, com'è? Una nuova, Giulio, non l'ho guardato sinceramente, mi ha detto Claudio che gli è arrivata a lui, però lo sapevo che l'avessi mandato anche a me. Adesso con... Sì, altri che due l'ho mandato, per farvi vedere com'è. Stamattina ho scattato un paio di foto e poco fa li ho mandati. Adesso sono salito e vi ho incontrato in frequenza, meglio così. Andate qua. Sì, lo conosco quel piantone, però ti ripeto, è un piantone d'appoggio in plastica. Mentre quello della Mantova 1 è alluminio pieno, è molto ma molto più resistente. Tu, lo stavo dicendo a Gianni che è nato con la camicia, 4 radiali in fibra, nuove, li ho tutti puliti, laccati, nuovi nuovi, quattro radiali recuperato in fibra, quindi praticamente c'è la Mantova 1 originale adesso. Sì, è bello, meglio così. No, ma quella è la crosta che c'è sopra lì, mi guarda solo il tubo, dove c'è solo una bobina col tubo, per farti vedere come è innestata la bobina dentro quella fessura del tubo, dov'era che si che perdeva il contatto, ed era quello il motivo per cui non era più cortocircuitata. Guarda solo quella fotografia del tubo, guarda che sono 5 stili di fotografia, non lo fai da uno, no. Sono 5 stili, e guarda le tutte, guarda quella col tubo, e vedi la bobina, c'è un danetto nel tubo, e c'è il filo della bobina piegato ed è entrato dentro. Adesso io l'ho sistemato, l'ho ribattuto di nuovo in modo che l'alluminio toccasse perfettamente col contatto, e dunque l'ho sistemata alla grande, e poi l'ho messo anche un altro isolante in modo che quella cosa lì non si stacchi da quell'incasso lì, da quella specie di fessura dove è inserita. Il sistema è come la Mantova 1 praticamente, dove c'è la spirale, no? C'è l'aggancio del cavo della bobina ed entra dentro, però quello si stacca. Io l'ho modificato al piantone di Gianni, anziché farlo entrare da dentro, ok, l'ho fatto entrare da un altro posto, praticamente da sopra il connettore, ed è saldato al connettore, perché ho cambiato il connettore. Ed è molto meglio, perché se dovesse staccarsi in 5 minuti non c'è bisogno manco di smontare l'antenna. Smonti il connettore e risaldi il filo, capito? Sì, quello sì, ma la bambina adesso è portata, la bambina per concretare la lunghezza fisica dell'antenna, dello stilo, non sarebbe dovuto il lungo, cioè tutta quell'abbondimento di filo che c'è, di bobina, che è poi un filo smontato, quello lì è praticamente un filo da avvolgimento molto ultimo, in poche parole, tanto per capirci. E quello lì fa parte della lunghezza fisica dell'antenna. E tu come l'hai cortocircuitata? Diretta l'hai fatta. E praticamente hai eliminato quella bobina. No, assolutamente, l'ho rifatta uguale perché era tutto. Non mi piaceva, capito? Quindi l'ho rifatta uguale. Però ti ripeto, vedi, tu ce l'hai attaccato alla vite della resina, ok? Eccolo qua, si vede meglio, vedi? Poi c'è il foro che entra dentro, è un sistema del cacchio questo. Quello della Mantova è molto, molto più serio di questo, ma molto più serio, perché c'è l'occhiello che va ad attaccarsi dove c'è l'aggancio della spirale, ok? Poi va fatto tutto l'avvolgimento, adesso mi ricordo quanti giri sono, tutto l'avvolgimento, e poi il cavo entra dentro un foro che va a collegarsi al centrale del PL dell'antenna. Sì, ma anche quello è così, non si vede, ma è così, non si vede, ma è così, entra dentro il filo, è uno spessore piccolino, cosa saranno essendo 5 cm di filo o di più, 5, 6, 7, non lo so di preciso, entra dentro, ma non si vede adesso, deve stare attaccato al burrone dove si attacca la spirale, infatti lì, il contatto è lì, qua, dunque, vedi bene. Ho visto anche la resina, cioè il vetro resina è perfetto, è nuovo, quello lì non c'è niente, il piattello, hai visto il luce del nuovo, e dunque i contatti sono perfetti, nonostante che era montata almeno 3 o 4 anni, è stata montata fuori. E dunque tutto il resto è così sono i radiali, puliti, belli, lucidi, così è lo stile centrale, è tutto è nuova, cioè voglio dire nuova, non c'è la minima differenza da prendere un'antenna nuova e metterla vicino a quella, non c'è nessuna differenza. Sì, scusa Gianni, ma qua non capisco, non vedo. Cioè, io non vedo il cavetto che parte dalla spirale e poi va a collegarsi al connettore dell'antenna. Io qua nel tubo, quello dove c'è la resina, vedo questo avvolgimento e poi il cavo, questo filo di rame, che anche a Gianni gliel'ho fatto col filo di rame gommato, che ha molta, ma molta più resistenza. E si vede che è collegato alla spirale. Questo io non lo vedo, questo è proprio all'interno del tubo, capito? Da dove rovescio, questo va collegato al centrale al connettore dove attacchi il PL, anche questo. Esatto, quando io era attaccato al connettore del PL, certo. L'anello, anche che metto dall'esterno, l'ho messo dall'interno, l'ho messo, in modo che non si possa mai arrugginire. Va attaccato la spirale, cioè il cerchio, diciamo, la molla grande, grandissima. E io l'ho messa dall'interno, ce l'ho messa, in modo che l'anello sia sempre in contatto perfetto diretto con la bobina e che va poi a collegarsi col tubo che c'è sotto, col pezzo di tubo d'alluminio, quello lì non è lungo, saranno 30 cm, e poi infilato dentro quello c'è il tubo di retroresina che poi a sua volta lo stilo centrale, cioè lo stilo grande, lungo, va inserito dentro il retroresina, va inserito dentro lo stilo centrale, va inserito. Non serve niente, capito? Stai mettendo giù l'antenna? Come, non ho capito? Quanto va, la stai mettendo? No, non la metto, non la metto già, assolutamente, no. Mi tengo quella autocostruita e basta. No, non volevo fare la fotografia per farvi vedere come è perdibile, per farvi vedere come è nuova, te lo sto dicendo, è pulita, non è arrugginita, niente di niente. Sì, vabbè. Chiaro che se è nuova, è nuova. No, ma anche questa è nuova. No, ma il sistema è uguale, solo che quella la manta va bene. Mi dà più affidamento perché, ti ripeto, l'occhiello dell'avvolgimento è uno attaccato esternamente alla spirale, dalla casa, e l'altro poi va all'interno e va a collegarsi alla centrale del PL dell'antenna, lo attacchiamo noi l'antenna, capito? Non si vede niente, così è fatta, così quella è fatta praticamente uguale, però va a coprire il tubo, il bocchettone praticamente dell'antenna, il primo pezzo va a coprire tutto quel sistema e non si vede niente. Questa la manta va solo così, l'avvolgimento si vede, ma è nata così e così deve essere, non è che ci può fare niente. Però ripeto, il piantone dove tu attacchi i radiali, la piastra contro piastra, una è di plastica, l'altra invece è di alluminio ferraccio. Ecco, quel sistema d'ingresso dei radiali non mi ha mai convinto perché è molto debole. Quello della Mantova, quando tu l'innesti, è praticamente in alluminio grosso, diffuso, dove è molto più resistente rispetto a quello lì. Capisci qual è il problema? Sì, ho capito cosa intendi dire tu. No, io ho il contatto, ce l'ho tra la carrozza, quella nera, quella lì in resina, lo stesso, non è plastica quella, sia ben chiaro. Quella è proprio resina, nello stesso della parola. Se tu la metti capovolta, guarda dalla parte del piattello, vedi i canali dove si infilano i radiali. No, adesso c'è il piattello sopra, e il piattello ci sono due vittine, si svita, si mette un radiale dentro quei canali che ci sono, no? E c'è il bulloncino passante, dentro ce ne va almeno un 4 cm per ogni radiale dentro, e poi attraversa il radiale, il bulloncino in acciaio inossidabile, e poi copri tutto col piattello, col piattello poi a quel punto mette a passa tutti i radiali. Siccome il piattello all'interno c'è una specie di lamella che è in contatto con quel tubo d'alluminio che vedi, e più il piattello, una volta che il piattello è piazzato, è tutto in contatto, sia il radiale che il tubo. Mi sono chiarato? Sì, perfettamente. No, Marco, no, se l'ho montata anch'io, l'ho smontata. Lo so, però ti ripeto, a me non mi ha convinto perché la vedo molto debole su quel sistema di radiale, mentre la Mantova 1 è molto, Mantova 1 e la Mantova 5 che sono uguali, c'è solo un radiale in più la 5, è molto più resistente il piantone, secondo me, poi non lo so. Vabbè. Cosa sta dicendo Gianni? La stai vendendo la Mantova? Cos'è che hai detto a Giulio? Io non ho detto niente, no, ho detto che se la stava mettendo sul tetto, non ho detto se la stava vendendo. E d'altronde non se ne fa nulla lì, cosa se ne fa se non la usa? Sì, vabbè, la può tenere di scorta. Sì, la tengo così, perché non ho... Sono bene, insomma, ecco, perché tutto io ho già, niente di particolare. Infatti tutti i bagagli li ho messi tutti insieme, io ho fatto due giri di nastro, uno sotto e uno sopra, sono lunghi 1,60 m, una cosa del genere, e sono tutti insieme. Il metro invece è il tubo centrale, cioè lo stilo centrale, quello è ancora con il cazzo nel poggiolo e quello lì lo devo smontare. Speriamo che riesca a smontarlo bene, perché adesso è tutto piazzato, tutto intero, ma suppongo di riuscirci, perché sono convinto che quando poco a poco lo scaldo, il metallo con il bruciatore che ho, sono convintissimo che, a parte il fatto che la ben protetta, erano per non entrare acqua, eccetera, no? E anche la fascetta era rivestita di una sorolante molto bene, ma abbondante, però molto abbondante, come se fosse messa con l'alcol stringente, tutto lì. E allora vediamo un po', lo devo montare, ma lo faccio quando c'è una giornata bella, comunque non c'è freddo, insomma, che c'è sole. Cioè, me l'avrei piazzata nel tetto, ogni tanto usavo una là, e ogni tanto usavo là, per vedere la differenza. Ero giù, già, se ne ero proprio per il fatto del vento che fischiava la notte, ero proprio per quello, se ero per cada di tocca, ero per te che nuova, la porta così con me per quei molti muri. C'è l'antenna, quella Game Master che hai costruito, non fischia, bene? Niente, assolutamente, quello che fischia sono i radiali, se io la monto e tolgo i radiali non fischia più, perché sono i radiali che fischiano, perché i radiali, anziché essere pieni di materiale pieno, sono dei tubi di 10 cm di diametro sono, e sono vuoti perché il vento li fa suonare. Se invece fossero stati pieni, proprio massicci, secondo me non avrebbero suonato sicuramente. Io l'ho preso così. Come fa il vento a entrare se sono tappati davanti e dietro? Magari trova il vento, quando soffia trova l'ostacolo e lo fa suonare per quello, forse è quello. E vabbè, un modo o nell'altro fischiano sempre, là. E quello lì darebbe fastidio a quello dell'attico. E tra l'altro è un avvocato, cazzo, non voglio attaccarmi a nessuno. Io non lo so, io volassi pure che lì da te non faccia niente, ma siccome io, tu immaginati, io sono nel piano sotto la mattata, no? Allora, l'antenna piazzata nel muro, corrispondente dove c'è questo letto, magari sarà quello che la può vibrare, non lo so, cosa vuoi che ti dica? So che solamente che il vento trasmette questo fruscio, la notte si sente molto, io lo sento la notte, ma tolta, ma non tanto per me, perché per me non me ne sarebbe fregato niente, perché non vorremmo che magari la sentisse anche quello che c'è nella casa in aderenza alla mia, capito? Già, solo per quello, per evitare qualsiasi controversia. E c'è. Sì, vabbè. Comunque Giulio, ho trovato sia la Mantova 1 che la Mantova 2, che la Mantova 5 in vendita, italiano, sito italiano, 150 costa la Mantova 5, 145 la Mantova 1. Sì, è uguale alla Mantova tubo, anche la Mantova tubo costa così, per cui non so, è meglio se l'hai trovata, è tanto di guadagnato, così se per caso decidi di comprare la puoi scegliere l'uno o l'altra, per cui va bene così, meglio, non è buono sapersi che qualcuno ce l'ha ancora, perché si era pensato che ormai già da anni che non ce l'avesse più nessuno, nella 1 e nella 5, mentre invece si trovava solo la tubo, che magari adesso venderò la tubo, ci sarà più buono che adesso. Cambio un attimino radio, che voglio provare l'altra radio, perché da tanto che non la provo, a vedere col microfono normale, a vedere se secondo voi posso usarla, dai, per farla andare. Ok, un secondo. Ma sono quasi intenzionati a prendermi la Game Master, lo sai, stavo guardando le caratteristiche e tutto quanto. Come dB di guadagno ne ha poco, non ne ha nemmeno due di dB di guadagno, uno e qualche cosa. poi che sia veritiera la cosa o no non lo so. E comunque ce n'è di due tipi di game master, bisogna stare molto attenti, c'è mezzo onda e 5 ottavi. Appunto, tu devi prendere quella 5 ottavi, devi prendere, che è più lunga anche, l'altra più corta, lo so, è ben quello, il discorso è anche quello. No, guarda, guarda, vedi bene Gianni, che come guadagno ne ha più della mantova, quando stai dicendo, ne ha più della mantova come guadagno. Guarda che c'è lo spettro del lombo, delle stazioni, e ti fa vedere che il lobo arriva al 24%, mentre invece la manta va arriva al 18%. Guardala bene, leggi tutte le pagine, leggi dall'inizio fino alla fine, e se poi fai desiderio di quella, poi vedi tu, io volevo che ti dica, non so cosa dici. Ripeto, lo so, 160 all'ora, te l'ho detto, 160 km all'ora, così è con l'orata, così sarà, credo. Se poi sono male, questo lo sanno loro, cosa hanno scritto, quello dove ti dica. Però leggila tutta, vedrai, come guadagno, ne ha più della Mantova Turbo addirittura, parlando di cosa, di guadagno magari che sarà fasullo, perché in realtà poi rispetto a un deporo di guadagno sarà siano 2-3 dB, ma non di più, loro scrivono 8 e qualcosa, anche 7,5, 8 per la manta, ma è altrettanto per la manta, per la game master, però non lo so, quelle sono tutte le palle. Rispetto al dB si considera in base al diporo o già, allora sì, che poi tutto sommato loro ti dicono 8, ma in realtà saranno sì e no, 2,5-3, non di più. Forse ho letto male io, adesso sto guardando bene e c'è scritto praticamente che ha 2 dB di guadagno in più delle antenne normali, delle antenne tradizionali. Oh, come va? Va benissimo qua, e te lo sto dicendo già, e a me lo sto dicendo proprio, io l'ho letto lì al computer, ma non una volta, oh. Ma la brometta cosa fa? Era almeno una quindicina di volte la brometta, per cui no. È chiaro, poi se sono scritte le fesserie, sono fesserie, ti sto dicendo, poi anche tu adesso lo stai leggendo, per cui la radio è buona, va benissimo. Ehi, microfono normale. Picchi modulazione ce n'è un bel microfono normale, questo è lo Yaesu, l'FT950, va bene come modulazione? Certo che va bene, va benissimo qua, c'è un po' più curva dell'altra, però va benissimo, ma così il microfono normale ed è normale quello, cioè la normalità è proprio quella, il microfono normale, però è fortissimo, Da te Gianni, no vabbè, c'è il processore inserito qua, processore inserito, volevo fare una prova, non ce l'ho l'adattatore, ma adesso me lo preparo e poi le inserisco l'MC60 qua, capito? Giusto per farla camminare. Mickey Gain ce l'ho a 3, Mickey Gain è a 3, non è molto alto, posso sollevarlo anche così, guarda, ora, ecco così, ho a 4, quasi a 4. Va benissimo, va benissimo anche a 3. Io sono convinto che se togli il processore e aumenti ancora il volume del mic gain, va benissimo ugualmente. La sento un po' chiusa, ma magari è l'apparecchio mio, non lo so. La sento un po' chiusa come radio. Diciamo che c'ha più bassi, rimane più grossa come modulazione, e da meglio l'altra secondo me. Già, sto parlando di una radio digitale professionale HF, non sto parlando di un 440 di 30 anni fa, no? Che se mi lascia a piedi si rompe la con questa voce. Guarda, allora così ce l'ho a 3 il Mickey Gain, sono a un palmo dalla bocca, se ti faccio sentire, guarda attacco 60, fa paura con la modulazione, è molto più forte del 440, guarda, così te lo metto a 4, ecco qua, guarda, così a metà del Mickey Gain, ti sembra bassa con la modulazione? No, non è bassa, non ti ho detto che è bassa, che non non rimane aperta come modulazione, rimane chiusa. Poi forse anche il mio apparecchio, non lo so, però a me mi risulta così. Mi risulta così, mi qua, parlando quando parli davanti al microfono così. Ma è chiusa già, è colposa, non è chiusa, è una terra chiara. Qualcosa, ma glielo ho detto poc'anzi, è una caratteristica del microfono normale. Questo microfono adesso è normale, Claudio, mettici dei 60 che vediamo. Non ce l'ho l'attacco, non ce l'ho, è sentivo, devo fare la connessione. Questo è il microfono normale, certo, microfono normale. Vabbè, allora non si può dare un controllo così. Bisogna vedere come va con l'MC60, se va meglio. È molto meglio, fatti voltare, meglio del 440. Già fatto le prove, solo che l'ho dato al microfono, il microfono della Yaesu, capito? Se no te l'avrei fatto sentire quello da tavolo. Perché no, non mi serviva. Così è troppo bassa. Ora, eccolo qua. Appena più alta la modulazione, vai. Va bene, è una prova tecnica di trasmissione. Comunque abituatevi, qualche volta entro anche con questa, e per me va più che bene. E io dico benissimo, tu dici bene, io dico benissimo, perché per me la radio è perfetta quella, per cui indipendentemente dal fatto che il microfono non male, è ovvio che poi cambia il microfono, è chiaro, poi ci sarà tutta l'amplificazione e la pianeta superiore dell'MC70 o dell'MC80, non lo so, 85, però è perfetta, la radio è perfetta, io ti sento benissimo, non è che sia no, è solo più colposa, la modulazione più mascola in poche parole, come se erassero. Prego, avanti. Era Massimiliano, avanti. Ocla, non è bella. Vabbè, tu mi dirai, abituati, ma non è bella. Senti, anche tu chiusa come radio, Massimiliano. Perché tu? Io la sento bene, perfetta. Magari ascoltandola con quell'apparecchio lì l'ascolti bene e a me non ci risulta così. Io lo sto dicendo per serie, sto ascoltandola come me la fa ricevere l'apparecchio. Poi se è il mio che non va bene, l'apparecchio è un conto, però la sento così. Allora, un attimino che ho attaccato il processore, vediamo un pochino. Allora, ho attaccato il processore, Mickey Gain, 1, 2, 3, a 4 tratte, clappa. No, ma adesso non mi piace nemmeno me, adesso non devo puntare la mente. Perché non è chiara. Va bene, allora lasciamo stare così, fate finta che questa è una radio normale, con il microfono normale. Ma inteso i bici, io sono in cuffie. Anzi, sono in moni, perché questo c'è il monitor e va bene. Ma Silvia, tu come mi ascolti? Fai conto che è una radio normale con un microfono normale, va? Già lo sai che peli per la lingua non ne ho, a me non mi piace, né con il processore e neanche senza processore. Poi ognuno la pensa a modo suo, però io dico la mia, non mi piace, né una maniera né l'altra. Vabbè, per il microfono normale è una radio digitale. Adesso vedo di montare il microfono a tavola e poi te la faccio risentire e si rampi lo 433 e lo 440, perché le prove le ho già fatte qualche anno fa, solo io l'MC60 che avevo connessione Yaesu l'ho dato a Valerio con l'ovo 120, capito? Però era una radio spettacolare, KK. Ma io non lo so cosa vuoi che ti dica, a me mi piace così, tenendo in considerazione che è il microfono normale, certo non la posso paragonare al MC70, quello no, però la radio è chiara, non ha nessun difetto, ha solo ed esclusivamente la voce, la timbrica più robusta, ecco tutto lì. Poi ognuno ha i suoi gusti, è chiaro. Gianni, mi ha tolto male, lo zio. Vabbè, ok, comunque era una prova, adesso poi quando faccio le connessioni, anzi domani, se ci andrei a Vada, faccio fare il connessione a 60 Iesu e lo provo con l'MC60 e poi mi date la risposta. Io le prove le ho già fatte, c'è cioè, un microfono normale, non è che sfinge più di tanto, ma vabbè. Ripeto, a me mi piace. Certo, il MC60 è un altro discorso, lo sappiamo, ma questo non si può fare in confronto, ragazzi, se vuoi mettere da un microfono, magari da 50 euro a uno costa quasi 200, e beh, non di certo, non è possibile, la differenza c'è perché c'è, però è un'ultima radio ugualmente, per conto mio è così, ma massimo gli avanti. Sì Giulio, neanche questo discorso che hai fatto tu mi sembra giusto. Un microfono può valere anche 1000 euro e uno ne può valere 10 euro. Dipende dalla timbrica, dalla radio, da tantissime cose. Quindi il microfono da 10 euro può uscire meglio di quello che paghi 1000 euro. Non c'entra niente quanto costa l'MC60. No, credo assolutamente, assolutamente. No, quello no. Diciamo che può andare bene ugualmente quando costa di meno, però che possa essere migliore, no, assolutamente. Ma diciamo anche che non sia adatto all'apparecchio, ecco, tutte queste cose. Però quando un microfono costa, vuol dire che è fatto con prestigio, Massimiliano, io la penso così. Sì, io non ti sto dando torto su questo, però in base alla timbrica della persona con questo tipo di radio, non è a tutti, tipo tu a me mi dai un 60, io il 60 non lo porto bene, quindi il 60 per me può valere anche 3000 euro, io sto uscendo con un MB+5, classico, da 30 euro. Sì, ma è benissimo, la radio tua è buona, è bellissima, lo so, cioè te l'avrei già detto, la radio tua è sempre stata bella, è sempre quello, problemi non ne ho mai riscontrato io, per cui, però io ripeto, considerando la qualità del microfono, che è quello normale, e la qualità dell'MC60, con la modulazione di Claudio, io ho detto che la modulazione per me è bella ugualmente, non è paragonabile, ho detto, all'MC60, però per me io la sento benissimo, bella, solo che la sento, anche se avere quello spunto amplificato che ha l'MC60, la sento più corposa, però chiarissima, senza nessuna inclinazione, è quello che intendevo dire, non so se mi sono spiegato bene. Sì, ti sei spiegato abbastanza bene. Guarda, ho detto la vetumiera, pace. Dai, mi saluto e sto scendo, riprendi Gianni. Sì, ho capito, ho detto la vetumiera a Bari, ma è una radio che vale molto di più dell'R440. Io lo sai che radio è. Sto dicendo io, le collego alle MC60 e poi te la faccio risentire. E tu mi dici che va molto bene, perché le prove le ho già fatte. Adesso, chiaramente MC60 non ne ho, volevo provare se anche col microfono normale andava, ma se la radio non va bene vuol dire che il microfono normale non va bene. Va molto bene in FM, va molto bene in banda laterale. Ok, tu che sia una betumiera, no, non mi interessa. Gianni. Ho già detto che sei una betumiera, vale Trento una betumiera. KK. Sì, vabbè, la gente già di Belgio tra le betumiere. Io ti ripeto, ribadisco che poi te lo faccio risentire con l'MC60 o con l'MC80, perché tanto la connessione la faccio l'adattatore per il Kimbo, di Aesio Kimbo, perché io ho quello Aesio Icom, però con l'SM20 non l'ho provato, è vero, non l'ho provato con l'SM20, adesso lo provo con l'SM20, aspetta. Ok, magari usandolo io, con il microfono che sta usando, quello che usa adesso, quello che non è, perché è normale, insomma, che ha una voce più stridola, probabilmente va meglio per me, non lo so. Magari Claudio, perché ha tutti i bassi al suo posto, io invece voglio solo il suono alto, i toni alti, e magari andrebbe bene per me col microfono, ma se meglio. Aspetta che sto collegando con l'altra radio, intanto qua non sto staccando niente, che passo col commutatore d'antenna all'altra radio. Quello che io uso nello IESU è un MH31, il microfono suo normale. Adesso sto attaccando quello della ICOM, ok, perché ICOM IESU ce l'ho l'adattatore, non ce l'ho IESU Kenwood. Attacco l'SM20 che è preamplificato. inserito, poi mi dai la risposta. Sì, ho finito. Ma ditemi una cosa, me ne sto fanno sopra casa o no? Non mi avete detto niente? Oh no, non se no te l'avremmo detto. Ok, va bene così, allora. No, perché adesso guardando il potenziometro del volume, mi era sembrato leggermente, ma leggermente più su di come solitamente uso. Va bene, sono contento così. Gianni, lì sarai il piantone della moto battuto. Sto uscendo? Sì, che sta uscendo. Vabbè, ha migliorato come timbrica di modulazione. Questo è l'SM20, non è che spinga molto, il 60 spinge molto di più. Questa è più chiara ancora. È più chiara del microfono normale, certo che è più chiara. Solo che non c'è amplificazione, c'è poca amplificazione. C'è poca amplificazione. Vediamo di tirare su appena appena il Mickey Gain. Scusa che c'ho la sigaretta in bocca, allora il Mickey Gain è questo. È salita un pochino? Sì, è salita un pochino. Così va bene, così è proprio una bella radio ugualmente. Proviamo a mettere ancora, vediamo se va a strappare o meno. Allora, vediamo se va a strappare. Ecco qua, così è a 4. Poco fa ce l'avevo a 3 con l'altro microfono, così è a e c'ha dei picchi belli di modulazione, così è a 4. Va benissimo anche a 4, per me va bene, guarda, sì, rispetto al microfono normale ha migliorato, indubbiamente ha migliorato, come la bustetta di radio ha migliorato, ma poi se sarà la voce tua è sempre quella, Da te Gianni, poi voglio sentire il parere di Massimiliano se ha migliorato qualcosa. Giorno alla notte. Tieni conto che questo è un SM20 della ICOM adattato solo io a ESO perché si sposano in una certa maniera, ok? Prove già fatte negli anni passati. Quindi ICOM sposa bene con Iesu, ma Iesu non sposa bene con ICOM. Kenwood sposa bene sia con Iesu che con ICOM, ok? E l'ICOM sposa bene con la Kenwood, perché se io metto l'SM20 sul il 440, la stessa modulazione dell'MC60, uguale, precisa e identica. Come va Massimiliano adesso? Un'altra radio, Club. Massimo, tu lo conosci l'SM20, lo sai, no? L'hai visto? Non è un microfono che spinge molto rispetto al 60, perché non ha l'amplificazione molto, molto forte, c'ha quella rotellina dietro, eccetera, mentre il circuito del 60 è un'altra gubba. Quando ti attacco il 60 sarà ancora più forte e molto più chiara, capito? Sì, ma io infatti cos'è che ti ho detto, Cla? La voglio ascoltare col microfono amplificato, con quello la classico normale, con la saponetta, non mi piace, e perché devo dire che è bellissima quando la radio non è bella? Io lo sai che purtroppo sono fatto così, quando la radio non mi piace lo dico, a voi. Non era bella, né col processore inserito né senza processore. Con questo microfono ha cambiato totalmente, se mette modulando con un'altra radio. Qua c'è anche un altro problema, che in AM qua funziona anche l'equalizzatore, ok? L'equalizzatore, quindi andiamo a inserire l'equalizzatore e andiamo a vedere cosa succede. Ora, ecco qua, adesso c'è inserito l'equalizzatore microfonico, quindi siamo nel parametro e anche troppo alto secondo me. Abbassa appena, sei quasi a livello di Kenwood. Allora, abbassa appena, l'ho portato da 4, l'ho portato a 2 e vedo i picchi in modulazione che sono strepitosi. Bella, bella. Cosa dite voi adesso? Bellissima, bellissima. Ma questa nuova è Claudio? Sì, questa è una radio nuova, un FT950 magnesio che ne fa 4 volte, ci vuole 4,30 e 4,40 vicini per la grandezza. Una bellissima radio, è tutta digitale, eccetera. No, adesso siccome ho visto la lucetta spenta dove c'è scritto perché ti segna tutto nello Smith, capito? Ho visto la lancetta spenta dove c'è scritto MIG equalizzazione, mentre in altro c'è scritto approach e sotto c'è scritto MIG equalizzazione. L'ho inserito e questo, però ripeto, l'SM20 non spinge come l'MC60. L'MC60 è ancora più bella la modulazione secondo me, perché io quando usavo l'effettino 920 che poi ho venduto, ho dato l'MC60 col connettore IAESU, ok? Ed è favolosa come modulazione. Io vi saluto, scusate, devo scappare. Claro, guarda il telefono. Eia, guardo il telefono. Non mi arrivi donuta, Massimiliano. Dalle, ho tempo. Va bene, dai, va bene. No, questa è una prova che ho già spiegato a Massimiliano per telefono, una prova che devo fare perché purtroppo Giulio, ne avevamo già parlato in diverse occasioni. Il mio 440, se adesso scusa Massimiliano che me lo guarda, il mio 440 sono stati spesi 180 euro più andare e tornare 3 anni fa con quest'anno, con l'inizio di quest'anno, quindi neanche 3 anni perché l'ho spedita a settembre del 2017, ok? Quindi neanche 3 anni fa, stamattina l'ho accesa, puntini, si è ripresa dopo una decina di minuti, quindi sta già iniziando l'allarme dei condensatori e quindi ho detto prima che rimanga senza modulare mi organizzo l'effettino 950, capito? E questa è l'ultima volta, lo giuro, su qualsiasi cosa è l'ultima volta che la riparo questo cazzo di 440, perché veramente mi ha rotto le scatole, basta. Sono arrivate quelle radio, sono purtroppo da mettere in vetrina e guardate, boh, finito. È chiaro, prima o poi si bloccano, certo, questo è ovvio. In effetti hai ragione, ma se è quella adesso, quella va benissimo, è perfetta, capita che è bella, ma bella veramente, una bella modulazione. Poi mi stai dicendo che metti l'MC60 ed è ancora più bella, è una modulazione che soprattutto quando hai messo l'equalizzatore si può anche lavorare, per cui magari facendo le varie prove si arriva proprio alla qualità del 440 con il MC60 sicuramente, che ci sei vicino, quasi vicino, sì, non è che non ci si molto lontano, sì, quasi vicino, ma proprio vicino veramente, non vicino un chilometro, vicino 30 centimetri. Allora guarda, io sono entrato nel menu perché ti fa entrare mentre parli AM car, ecco, il parametro è questo, equalizzatore, il parametro AM è già regolato, il parametro AM è già regolato, non c'è niente da regolare. Può essere che in automatico col proci, boh, non lo so, forse l'ha già regolato da prima. Comunque una bellissima modulazione, mi sto ascoltando, veramente bella. Dai. Ciao Massimiliano, un abbraccio, saluti a casa, dai, buon divertimento per stanotte, ok? Vai Gianni. Ah, ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai, buon proseguimento. KK, no, adesso già va bene, quindi ne ha acquistato un'altra, visto che avevo ragione io, tu dici non ne compro più. Scusate, sono Massimiliano, ciao Massimiliano, a proposito, voi volevo, ti ricordi, tu non l'hai conosciuto molto bene, penso anche Claudio, ti ricordi di Angelo Mello o Gianni, nonché Shadow 2, ti ricordi? Certo, abitava dove c'era il carbonaio. Che poi te ne è andato fuori, è diventato addirittura commissario o vice commissario della polizia. È morto, purtroppo è morto, l'anno scorso, nel 2018. Davvero? E di che cosa? Si vede che aveva qualche tumore, perché è sparito in breve tempo, così. Tu mi accenditi il computer e vedi se ci sono una marea di fotografie sue e poi c'è tutta la storia di quando era in polizia eccetera, scrivi solamente Angelo Mello e poi ti appare lui con tutte le fotografie e io l'ho scoperto dal computer, io non sapevo niente, infatti è proprio quest'anno ad esempio che non ho ricevuto e nemmeno l'anno scorso di Natale ho ricevuto gli auguri, perché io tutti gli anni, e ogni tanto ci crede pure bravo anche, e ci scambiavamo gli auguri, e invece questa volta non li ho sentiti, non li ho letto. Allora guardate, adesso guardo Angelo Mello, vediamo un po' se riesco a vederlo su Facebook, anche se io Facebook non ce l'ho, però ci sono le sue fotografie. Poi leggendo c'è scritto che è morto il 17, mi sembra, se ricordo bene, il 17 settembre o una cosa del genere, del 2018. Questo qui è un colpo. Io Angelo Mello lo frequentavo, io, Manuel, Norto, tutti, eravamo tutta una greffetta, capito, che uscivamo insieme. E se io ho conosciuto il baracchino proprio per lui, perché me ne voleva in bottega, quando ero un ragazzino di 13-14 anni, lui aveva il pony dentro un borsone, tipo militare, e veniva con questa radio, che poi da lì ci ho pensato anch'io, e dunque mi è dovuta cambiare la passione del baracchino. Però io, sinceramente parlando, ho conosciuto il baracchino proprio tramite Ciano, che era un ragazzino, perché veniva sempre in bottega da me, no? Lui abitava in via Pascoli, già lo sai, praticamente proprio di fronte a dove sono io, però in via Pascoli. E veniva lì, mi ricordo una volta, poverino, stava giocando con Matteo, che si è aspettato il dito, è stato tutta la mattina col dito in alto, così, guardandosi il dito, anche se poi non aveva più nessun dolore, poveraccio, è morto, 57 anni appena, te l'immagini già. Gianni, guarda il telefono che ti ho mandato alla radio. Mi ricordo che c'era un corridoio lungo, un viale lungo per arrivare a casa sua, e lui rimaneva di rimpetto al viale. Io sono andato a casa sua tante volte e non conoscevo bene. Dopo ci siamo persi di vista, perché poi lui è partito, ci modulavo. Era il periodo che c'era Manuel, non so se te lo ricordi a Manuel. Guarda il telefono, Gianni, che ti ho mandato la radio. Tu l'avevi vista, Giulio, con la radio? No, non me la ricordo, ma forse sì, forse la fotografia che mi avevi mandato tutto il banco l'altro giorno, perlomeno una parte del banco, forse c'era. Ma non si vede bene, sto la mandando accesa, come la sto usando, guarda, ecco qua, Giulio Lollaro, la sto mandando, ecco, te l'ho mandata adesso, accesa e in funzione, proprio solo quella radio lì, è molto bella. Molto, ma molto bella. Vabbè. Capito? No. Certo, ma io mi ricordo la prima volta che l'ho fatto, che me l'aveva fatto Guidetti, allora, il 400 qua. Guidetti, che non c'è più, insomma, cos'è morto, boh. Non lo so. Stava durato 5-6 anni. 5-6 anni. Cazzo, l'ho mandata da Bianconi, manco 3 anni ha durato la radio. Manco 3 anni. Purtroppo sono appariti troppo vecchi, hanno lavorato molto, per cui io spero che continui a andare bene questo, e se non va bene, va dentro, se vuole una pace, mettiamo un baracchino e non se ne parla più, perché intanto cosa stai a fare? Non ne vale la pena, e poi chi è che lo riparerebbe oggi? Vabbè, l'ultima un'altra volta me l'aveva riparato Fabrizio, e me l'aveva fatto anche molto bene, devo dire. Però se ce lo dovesse guardare di nuovo, cosa faccio? Dopo io sono con la macchina, adesso a vetrina e basta. A me quello che aveva fatto Fabrizio, lo stesso che poi ho venduto, non mi hanno mai cercato a dire mi si è fermato la niente, ma perché secondo me, io non è che posso riferire perché non sono un tecnico, non me ne intendo, ma il materiale che vendevano prima, secondo me era molto meglio di quello che vendono adesso, capito? La componentistica di allora, non so se sto sbagliando, era molto meglio, perché a me la riparazione che io ho fatto anni fa mi era durata un sacco di tempo, l'avevo venduta fra quella che hai tu, quella io l'ho fatta una volta, ma l'ha fatto Guidetti, ma non mi ricordo neanche in che anno è, non mi ricordo. dico neanche che a noi, poi l'ho venuta a Franco, l'ha continuata a usare, ma io l'ho usata per 4-5 anni, sempre ottima, poi l'ho usata a Franco, poi è passata a te, quando è passata a te ho detto beh basta, adesso mi dovete cambiare condensatori, se volete io continui a parlare, ma ha durato molto di più, Ghisa ha durato 2 anni e mezzo, non puoi dire che non la uso, a dire la tiri spenta, io la tengo accesa sempre, sempre, io quando non c'ero nel periodo estivo me la sono portata via con l'alimentatore e vi ascoltavo, lo sai che ascoltavo, e ce l'avevo sempre accesa, sempre accesa, l'ho riportata qua e la sto continuando ad usare sempre, sempre, sempre, è proprio un difetto che c'ha il 430, ma perché il 430 non lo fa? Perché non lo fa il 430? Io ho un 430 che ce l'ho 15 anni, non ho mai cambiato condensatori, perlomeno io, non lo so, non lo so, altri difetti, altre cose, Fabrizio la presiamano 3 o 4 volte, ma per altre cose, non ha cambiato i condensatori, capì? 440 è una radio di merda. Purtroppo è così, ma il problema, per quanto ne so io, cioè io leggo molto sul computer, no? Ad esempio Roger, che un tizio come accidente si chiama, adesso non me lo ricordo, e ho letto tante cose su riguardo del 440, e ho letto anche che chi porta questo problema è quella specie di resina che pure a un certo momento si secca, questa resina dice era stata messa perché in realtà questa radio era stata costruita per poterla utilizzare in macchina, allora per far sì che non si scottessero i componenti hanno messo questa resina, però questa resina con l'andare del tempo, siccome inizialmente è isolante, poi diventa conduttiva e praticamente mette in cortocircuito i vari componenti, perché a un certo momento io dico allora basta togliere questa resina e dovrebbe funzionare ugualmente. Adesso io non lo so come me l'abbia riparata Fabrizio, io so solo che va benissimo almeno fino a questo momento, vediamo che continua ad andare bene. Se poi questa resina lui l'ha rimessa o non l'ha messo più, non te lo so dire qua. Però io avevo letto sul Roger questa cosa qua, io le dico sempre, io non solo su Facebook perché non so buttare al computer, però tutto quello che riguarda la radio io lo leggo al computer e lo metto a fare diverse volte, ecco cosa ti posso dire. Sì, no, la conosco perfettamente, dall'86 che uso il 430 al 440, quindi la conosco perfettamente, non ci ho mai messo le mani perché sono radio molto diverse da poter fare qualche regolazione sul 140, io le mani non ce le ho mai messe, però l'ho vista aperta, so come è fatta eccetera, e solo me sono davvero il gruppo del VCO dove sono tutti i condensatori. Guarda, io ho la trienina, ho una boccetta di succo di frutta di trienina, che c'è un carissimo amico che ci ha dato il lavasecco e la usano lì, no? E quindi me l'ha data, e con un tappo di sugo dentro l'armadio, domani mattina il sugo stava nuda, la apro e pulisco tutto con la trienina e il pennellino, poi la soffio con l'aria, quella chiusa del computer, la soffio e vediamo cosa succede. Perché è impossibile, cioè 2 anni e mezzo, cazzo, 2 anni e mezzo, 180 euro più 20 andà e 20 a durrà di trasporto, 220 euro, 2 anni e mezzo fa, Ospes, 2 anni e mezzo fa, capito? Mentre quella che ho venduto, che aveva fatto Fabrizio, quella ancora sta funzionando, perché io mi sento con questa persona, sta ancora funzionando, quindi secondo me la componentistica era molto, ma molto meglio di quella di adesso, andiamo a fare dei componenti che non servono a nulla, che dura nel sacco barato, tanto è vero che un kit di condensatori per la parte del VCO costa 40 euro, costa 40 euro un kit completo. Sì, è possibile qua che i componenti di oggi siano fatti un pochino meno bene di come li facevano prima, è possibilissimo, ma un po' tutti i materiali, tutte le cose ormai sono fatte un po' in cosa, al risparmio, ed è proprio così che deve essere, è stato così. Comunque, tu mi stavi dicendo, questa è la fatta quindi, l'ho data tanti anni tu, l'ha data Franco l'ha data a me, e io l'ho riparata praticamente un anno e mezzo fa, massimo, non di più, all'incirca. Capita, allora è durata 10 anni questa cosa funzionasse come minimo, senza che avesse avuto nessun problema. Assolutamente sì, te lo sto dicendo, assolutamente sì, è così, è proprio una cosa di componenti, registrato il break, è una cosa di componenti, perché non è possibile una cosa del genere, cioè due anni e mezzo fa, stamattina stavo, l'ho acceso normalmente, stavo ascoltando i 40 metri perché accendo sempre, soprattutto il 440 e il 430 per non accendere gli altri grandi, e ho visto che si è fettita da sola e sono apparsi tutti i puntini, ho detto un campanello di allarme, dopo un pochino, un 3-4 minuti si è ripresa da sola. Perché ce l'ho accesa, però è da una parte senza antenna, ho commutato col 950. Vabbè, purtroppo sono radio che hanno fatto la storia, che fino a quando vanno bene, alla fine poi ti dicono basta, finito. Io non la riparo più, assolutamente. Guarda, ne ho anche un'altra nuova, quanto è quella che uso normalmente, che mi ha dato Stefano appunto, ritirata da una barca ad Olbia, è nuovissima, accende, riceve, ma non trasmette, proprio bassa, ma è proprio una, anche quella vuole tutta messa a posto di condensatori, quindi figurati, ne ho anche un'altra, figura di due, vabbè. Gianni, riprendi e fai entrare a Nicola. Avanti Lupo Grigio, buonasera. Di Alfa Romeo, non mi ricordo come si chiamasse, te lo ricordi Giulio? Beniamino, c'era un lupo grigio, io non ti ascolto, ieri sono riuscito ad ascoltarti per la prima volta, ieri sera, se ti metti, non vedi, ieri sera riesco ad ascoltarti, perché qua arrivi troppo basso, non so se puoi fare la stessa cosa, come ieri sera, quando puoi salutato perché ne sei andato, io ero appena arrivato e ti stavo ascoltando, e ti sentivo basso, però ti sentivo, mentre invece in questo momento non riesco a sentirti, se puoi metterti nella stessa posizione dove ti trovavi ieri sera, probabilmente riesco a sentirti e così almeno ti posso anche rispondere. Avanti qua, vediamo un po' se si sposta e poi se l'ascolto. No, sei sempre uguale. Ieri ha messo quell'antenna particolare, non lo so che antenna hai messo, e ti sentivamo forte, più forte del solito, là. Possibile. Adesso alzando il volume già ti sento meglio, forse c'è il volume basso io, forse è colpa mia, vabbè. E allora cosa ci racconti di bello? Non lo sento, Vabbè dai, si godono meglio i nipoti dei figli, perché i figli non hanno mai tempo, devi lavorare, devi fare quello, devi fare l'altro, ma i nipoti te li godi, dai. Già è bello conoscere i nipoti, eccetera, eccetera, c'è gente che questa fortuna non ce l'ha purtroppo. Avanti Giulio. Purtroppo un pochino non ti ho sentito nemmeno in questo momento. Ieri avevo un'altra antenna, Gianni, avevo un'altra antenna che ho messo ieri. Perché ieri riuscivo a sentirlo, basso ma lo sentivo. Mentre invece oggi frutto niente. Anzi, rispetto a poc'anzi al primo passaggio ha anche peggiorato. Almeno prima c'era il brusio, adesso nemmeno il brusio sento. E io invece devo abbassare il volume quando parlate voi, e quando parla lui lo devo alzare, se no non lo sento, se lo sento basso. E beh, lui è di vicino a te, glielo credo, sei lì a Cappuccini, è chiaro, cos'è, la distanza del ponte, è in Italia, è chiaro che così lo senti bene, ma io non riesco a sentirlo. Vabbè, quello mio. Sì, sì, ok, ciao Nicola, Lupo Grigio, buonasera, ben ascoltato. Santiago, non so se sei su, sei un po' più basso di ieri, comunque non arrivi al 9. Oggi non arrivi al 9, evidentemente non sei nella stessa posizione. Se sei sotto è un ottimo segnale, sei tra il 7 e l'8 comunque, va bene, ti ho ascoltato. Va bene, ok, adesso qua non so cosa fare perché allora questa la devo passare con questa antenna e l'altra, vabbè, se è tutto sotto commutatore, sotto commutatore chemo, vabbè, le lascio così adesso, uso quello della ICOM in HF, questo lasciamo il 27, poi vediamo se fa nuovamente difetto il 440, se non lo fa riattacco quella, dai. Ti è piaciuta Gianni la radio? Col microfono amplificato sì. Il microfono normale non mi piaceva, te l'ho detto. Come ti ha detto Massimiliano, te l'ho detto io. Cosa ti stavo dicendo? Ma perché il 440, che difetto ti sta facendo? Non ho capito già. Il 440, che difetto ti sta facendo? Il difetto dei condensatori, che è il solito difetto. Però, come stavo dicendo, se hai ascoltato, io quella radio l'ho fatta cambiare i condensatori 2 anni e mezzo fa, mentre quella che ha Giulio, che era la mia, ha durato un'eternità con i condensatori sostituiti. E dicevo appunto che i condensatori, i cosi, come si dice, vabbè, il materiale che facevano prima era secondo me molto superiore a quello di adesso. Capito la componentistica, perché è impossibile, evidentemente questi sono condensatori del cacchio, condensatori che non valgono a niente, perché 2 anni e mezzo non può durare, è stata tutta revisionata, ho speso 220 euro. Comunque, vabbè, vediamo, dai. Non è un problema, ne ho altre radio, no, non sto lì a cicischiare. Non ho detto, ti è piaciuta la foto della radio, l'hai vista? Ma bella, è bella la radio, sì sì, l'ho vista, bellissima. Una bella radio, bella grande, con forza. Proprio fa bene all'occhio, dai. Andava, cosa ti stavo dicendo? Allora, Lupo Grigio, che cosa hai deciso? La cambiamo questa antenna o no? Lupo Grigio! Cola! Invece l'ho chiamato a fare il nonno. Era una bella radio, sì, poi a colori, hai visto, è molto, molto bella. È molto bella. Quella è Giulio, l'hai vista? Te la ricordi? Sì, è bella, bellissima, è bella, bellissima. Questa era una gran bella radio, veramente, caspita. FT 950, quelli è. Sì, questa io l'avevo comprata a sua volta da Sandro, Palottosi, l'ha usata 6 mesi e poi l'aveva data a me, l'aveva venduta a me. Io l'ho tenuta poco, avevo preso il 756, l'avevo data a Fabrizio quando è diventato radioamatore, adesso è tornata nuovamente a me. E noi facciamo i giri particolari, facciamo i giri del carruzzo, come si dice, dai. Ok, sì, è una bellissima radio, veramente, cazzo, tra l'altro che questa è proprio a livello da quei tempi, cioè di tempo moderni, non da quei tempi, di tempo moderni, con tutto quello che si vede, bellissimo, cazzo, me la può buttare, se bella, molto bella, veramente bella. Ma me l'ha proprio vista io da casa di Sandro questa, eh? No, questa me l'ha data, caspita. Me l'avevo data subito, poi Fabrizio è diventato allenatore, stava cercando una radio stacco baratto, quindi abbiamo fatto un appello, ma tra una cosa l'ha presa lui e si è tornata a me. Adesso ce l'ho di nuovo io. E vabbè, però è chiaro che non è una radio da usare in 27, adesso giustamente la sto usando perché sono costretto ad usarla. Il 440 ce l'ho a fianco, è sempre acceso, non ha mancato di niente, però questo falso allarme che mi ha dato stamattina voglio tenerlo sotto controllo. Domani mattina la apro, ripulisco tutta la parte di vocio con la piedina, compresi tutti i condensatori. Non vorrei che ci sia questa pattina di qualcosa che sta facendo questo questa interruzione del circuito, comunque. E poi vediamo, se non lo rifà più vuol dire che era proprio un problema, perché è impossibile che i condensatori siano scarichi e che vogliono sostituiti. È passato poco tempo e poi io ce l'ho sempre in funzione. Mai, non è mai passato un giorno che ho tenuto il 440 spento, mai. Il 430 sì, ma quello mai, mai e poi mai. Quindi è una cosa che un po' mi prende male. Vabbè. Vediamo un po' se Nicola riprende. Nicola, io ti dicevo Santiago 5 adesso, 3, 4, 5. Sì, ma non rimanere su Nicola, ne prendi un malanno. Perlomeno io ti ascolto, basso ma ti ascolto, Giulio non ti sente manco se rimani su, quindi è inutile che rimani su. Gianni ti ascolta lo stesso, anche se scendi a casa, rimani giù, c'è troppa umidità sopra, Nicola. Perché c'è freddo, non è che c'è freddo. C'è freddo, c'è umidità, non è che puoi stare, per farti sentire da noi devi prendere un malanno, secondo me non conviene, vai Gianni. Infatti, già le ho detto io cosa devo fare, ci metto un'antenna e buonanotte, così non piglia freddo. Poi anche io l'ho fatto, quello che sta facendo l'ho fatto anche io, con un portatile, un booster di cosa per caricare la batteria della macchina quando non parte, usavo quello con la spina sempre attaccata come alimentatore e poi un lineare 300 watt e un'antenna su Poggio, te lo ricordo? Sì, me lo ricordo che usavi anche quelle portatile quando abbiamo riniziato a resumare la 27 e già, sacrifici abbiamo fatti tutti, io quando sono arrivato qua nell'85 usavo una Grand Prix perché vabbè era ancora cantiere, ancora tutto incasinato, giusto per fare due chiacchiere, per farci sentire poi come hanno terminato sopra, che hanno ultimato gli ultimi piani, ho chiesto all'impresa se potevo, allora era il nono piano però io, non era il secondo, quindi il cavo è entrato immediatamente nella finestra senza dare fastidio a loro e ho montato la prima Mantova 1, la prima Mantova 1, che immaginate tu, ne ho avuto tre di Mantova 1, una Mantova 5 e una Mantova Turbo, e adesso sono tornato alla Mantova 1, quindi ho aggiunto l'antenna e un gasobra, vabbè, dai. Avanti Giulio, io inizio a prepararmi che è già ora di portare il cane, però sono qua, intervengo appena sono pronto, ok? Ok, appena chiamo un attimino di tempo, perché non mi fai la fotografia quando io sto modulando e mi mandi lo smitter tuo, mi mandi io qua, se puoi fare così, sono pazienza, quando è possibile, poi adesso fai quello che devi fare. No, ma voi affatti un video mentre stai parlando? Sì, appunto, fatemi vedere il segnale come arrivo, mi tocca parole. Ah, ok, aspetta, perché il tuo telefono non è un granché. Sai cosa ti sto ascoltando adesso? All'ricordo della cuffia, al posto della cuffia ci ho messo un amplificatore, che è un amplificatore da macchina praticamente. Dunque vi sto ascoltando adesso con l'amplificatore, è una bella modulazione, bella corposa, proprio bella. Aspetta, ti dico io quando andare. Ok, tu mi mandi il video, la fotografia basta, non c'è bisogno. Quando io sto schiacciando la portante mi mandi la fotografia di quella radio o della radio che stai usando e voglio vedere più o meno dove arriva la freccetta del segnale. Parla però, schiaccia. Ecco qua, pronti, 1, 2, 3, prova, attenzione Claudio. Sto guardando io adesso, di nuovo me la sto guardando adesso, ma adesso mi mandi il nuovo filmato, sì che lo vedo bene anche avanti. Vai Gianni intanto, là. Aspetta che devo fare dei cambi, che sono stati su 23, mi stanno sbatterando, devo cambiare. Aspetta che te la sto mandando. Va bene qua, grazie. Ecco il problema di Gianni è anche quello, di spartere o... Gianni non c'è bisogno di cambiare, metti l'attenuatore, no? E così non li senti. Non si sa che siamo lì, o qua, lui ha gli spartere perché sono vicini, è ovvio. Lo so, non ti ho fatto un filmato, perché... se no ti arriva dopo domani questo telefono. Ti ho fatto una foto del tutto segnale, guarda dove sei, guarda, e non c'è niente inserito, guarda. Ma tutte quelle luci, che c'è? Non si vede molto bene. Ah sì sì sì, come sotto l'arma rossa praticamente, o qua, e lo oltrepassa anche, oltrepassa il 9 e si sottopone la striscia rossa della tua radio. Sotto il 9 c'è più 20, più 30, più 40, più 50, più 60. Sì, sopra lo 0 del 20, non lo vedi? Lo vedo io, 9 più 20, sì. Sì, tu solo lo vedi lì, sì, perché ce l'hai davanti. Ma qui si vede un po'... già si vede, però già, voglio dire, sì, sì, già si passa, già lo passa, più lo passa abbondantemente. Sì, sì, l'ho visto, insomma, un bel segnale, insomma, poco fa. Va bene, va bene. Sono contento. Ci vedo anche se sposta l'antenna. Qualche cosina guadagno anche, se la metto in alto dove era prima. Lo so, però è un bellissimo segnale quello, e quella è seria, e quello ti dà, te lo sta dando in digitale, non è buccia di gioco. È perfetto, sì, un po' sfocata l'ho fatta perché ero di traverso, però sì, c'è il 9, tutta la parte bianca arriva sino al 9, poi sì, praticamente due tacche rosse sopra il 9 più 20. Sì, l'ho visto qua, sì, beh certo, nella fotografia non può essere come lo vedi lì in diretta, certo, beh, è un bel segnale, sono contento, andate. No, non stai uscendo. Che aspetta, le 7:30 sono quasi, le 7:28 per l'esattezza, bobo, come passa il tempo, è domani la Befana, bobo. E domani ci trasvestiamo, visto che la Befana, fermo i Befani. Gianni, aiuto, Nicola. Nicola si è allontanato, non arriva. Beh, lo so. Evidentemente ieri era da qualche altra parte, perché ieri l'ho sentito, ma insomma l'ho sentito ieri sera. Però ho fatto arrivando io e chiudendo lui, proprio ieri sera. E oggi invece non niente da fare. Vabbè, pazienza, dai. Già si attrezzerà anche lui, così avrò modo di sentirlo anch'io. Ecco. Ehi, già, adesso stai uscendo, dai. Perché ho voluto riprovare il Galaxy a vedere se magari riposando si era ripreso, ma non c'è verso. No, già lì lo devi portare dal medico, già lo sai. Abbi un po' di pazienza, già te lo metti a posto. Dai, riprendi con Giulio che io mi vesto intanto, sono in pigiama così mi organizzo per portare il cane, dai. Ehi, a Malupovic ha dato via. Non ha risposto più, evidentemente l'hanno chiamato, sta facendo cosa, non lo so. Lupo Grigio, mi ascolti? Cambio. Io. No, non lo sento più io. Giulio, riprendi. Ok, già. Sì, no, mi ha fatto mandare la fotografia da Claudio, del segnale che arriva a 9 più 20 di segnale con la radio digitale, ti puoi immaginare, un bel segnale veramente, ma veramente bello, considerando l'antenna nella posizione in cui si trova e allo stesso tempo che è autocostruita. Va bene, sai cosa ti dico? Adesso domani voglio telefonare a Carbuglia telefonare, vediamo se la sta usando l'antenna, se non me la faccio restituire, me la faccio, così se me la restituisce meglio l'originale, sarebbe bello, lui gli ha dato l'originale, tuo nipote. Allora, magari la mia io, che non ne avrei tolto la tua tubo, non me lo immaginavo mai, allora, infatti, è quello. Però ne avevo ricavato le misure, ne avevo ricavato tutte le misure io prima, capito? Perché mi ero data che era smontata, non poi gli ho spiegato come si doveva piazzare, si doveva, e ne ho data. Poi me l'ho ricavato tutte le misure, che ce le ho anche fitte qua. Dunque, è per quello che io ho fatto le stesse misure di quella ho fatto. Ho visto che ha funzionato, quella vitrine. Allora, quelle antenne lì, siccome sono le dipuri, potrebbero funzionare anche mettendole in terra. Vanno lo stesso, fai la prova e mi dà la risposta. tu pensa che quell'antenna lì, se tu metti del ferro all'altezza dentro la bobina, ad esempio, del metallo, allora già comincia a difettare. Sotto un fiore può esserci anche metallo, come te infatti nel coso, non per poter affissare al tubo poi al palo. Ma se dovessi mettere, per dire, un palo lungo, tanto da attraversare la bobina, e poi ci metti la camera fresca infilata dentro, allora non funziona più bene, perché se ne mangia il segnale, se ne mangia. Mentre invece è così, ha quella caratteristica, già, è un'antenna che è stata studiata al computer, l'ha studiata la figlio, non è che l'ha studiata un piccolo pallino qualsiasi, è un progetto studiato al computer. E dunque, basta pensare cosa costa e abbiamo detto tutto. Per quanto possa essere, vedendola così a vista d'occhio, una cosa da 4 soldi, ma in realtà non era 4 soldi. Perché? Perché c'è tutta una progettazione con tanto di strumenti professionali e sofisticati, tra l'altro. Già. Sì, l'ho letto che è stata studiata al computer. L'ho letto. Vabbè. Ma ci credo che sia un'antenna che vada bene, non è che non ci credo, è solo che la mia paura è che siccome ho sentito che si era spezzata a diverse persone, anche a Salvatore gli si è spezzata, mi sa. Ma non lo so, questo non credo che gli si sia spezzata a Salvatore, non credo. Io mi ricordo che sì, che avevano avuto un altro problema, forse nel PL avevano avuto, però non che si era spezzata, questo no. Però anche se si spezza, è parabilissima, perché ho visto anche quello, se tu guardi in frequenza, cioè in frequenza, al computer volevo dire, non in frequenza, se tu guardi, chi ce l'ha avuta la rotta spezzata, ristrutturata e va benissimo ugualmente, perché in realtà è un pezzo del filo, perché quello che si rompe è la fibra, no? la vetroresima praticamente, però poi ne mette un rinforzo proprio nel punto dove viene sollecitata di più e te la ripari. E io l'ho seguita tante volte, ma anche addirittura ce l'ho salvata nel computer, ti puoi immaginare, ora già ce l'ho salvata, e non solo quella, anche altri progettini li ho salvati nel computer, ed ogni tanto l'apro e me le guardo. Oh, io vado a portare il cane, mi sentite? Ehi, a Claudio, ciao, buona passeggiata. Ci sentiamo dopo se siamo ad ascolto. Avanti. Ok, d'accordo, qua buona passeggiata, vai. A dopo se ci siamo ancora qua. Sì, già, appunto, te l'ho detto, io l'ho letto e traletto 10.000 volte, non una volta, e ogni tanto faccio sempre un ripasso e ascolto anche le impressioni. Io apro le pagine sempre dei Radio Amatori, no? E non sono iscritto, però leggo quello che scrivono loro, leggo, e c'è tanta gente che l'apprezza moltissimo, e c'è tanta gente magari che non l'apprezza, perché no, come tutte le cose del resto, no? Ma anche quando si è rotta hanno spiegato come ripararla, ed è facilissimo ripararla, non è un problema, perché non fai altro che la rimetti dritta, la rimetti, ci metti un pezzo di tubo dentro, ci metti più rosso di quelli da elettricisti, e va bene lo stesso, e la puoi prendere, in poche parole, per cui va bene così. Ma dove la telefono è già cosa, vediamo se me la dà, se non l'ha usata. Perché lui aveva un'antenna, questa cosa che aveva, forse aveva una cosa, come quella di Marco, mi sembra. Poi io gli ho dato quella, vabbè, fallecela. E poi un giorno mi voglio telefonare, vediamo un po' se ce l'ha, me la faccio riportare, e così almeno mi metto l'originale. Ma non penso brutto, oramai fila. Sì, ma io quello che dico io, l'antenna, se costa quel prezzo lì, non si deve rompere, è quello che c'è, deve essere fatta in modo che non si rompa col vento, è quello, il difetto è quello, non è che devi stare ad aggiustare un'antenna che paghi quel tanto lì, costava oltre 200 euro prima, adesso costa di meno, ma prima costava più di 200 euro. No, io l'ho sempre conosciuta che costava intorno ai 160, tanto qualcuno ce l'ha anche 150, poi la naturalmente c'è anche quello che, la, che ce l'ha anche se non vanta, dipende dalla ditta che la vende, questo sì. No, ma vedendola, cioè se tu la vedi così, tu non può valere così quei soldi. Eppure devi pensare però che c'è tutta una progettazione, tutto uno studio, è chiaro, poi c'è, e non solamente il guadagno dell'assiglio, c'è il guadagno anche del venditore, del commerciante che la vende, e sa, ecco, a questo punto i prezzi salgono per quei motivi lì. Però stando a quello che è scritto sul computer resiste sino a 160 km l'ora il vento. E chi lo sa, io so solo che qua si è associato anche a 120-130 l'ora. E questa canna da pesca, che è una cosa da guida di la pena, non si è rotta. Dunque, se non si è rotta qua, la figura se si è rotta con l'altra che è fatta come si deve. Ma vuoi scherzare? Questo, io la penso così. Sì, capace l'hai fatta meglio tu, l'hai messo più rinforzi. Loro la fanno all'acqua di rose in giugno, posso lasciarsi per comprarne un'altra. Tu invece quando la fai con tutti i criteri, li metti rinforzi, questa e quell'altra magari dura più quella che fai tu di quella che vendo. Credici. Ma può darsi sicuro, quello che ti dico, può darsi già. Io ve l'ho fatto io, dove c'è la giunzione, ci ho messo un pezzo di tubo degli elettricisti, ci ho messo dove si, quando tu la tiri sulla canna da pesca, no? Dove c'è il collegamento tra un elemento e l'altro, ci ho messo un pezzo di tubo degli elettricisti, ci ho messo di una quarantina di centimetri, l'ha tratto sotto e sopra, bene, con un collare anche, di quelli di plastica che stringono i fili e meccanici, quelle cose di plastica, che quando lo stringe poi non si può più aprire, deve rimanere chiuso. E ho messo quello, ho visto che regge, quello che dice, eppure qui ha soffiato molto, ma molto veramente. Tu pensa che qui ha fatto anche danno il vento, tu vedevi soprattutto i bidoni della spazzatura, poi li faceva volare e li dovevi servire correndo perché non riusciva nemmeno a trovarli, per dire no, qui ha soffiato molto, ma molto veramente. Si sentiva un fischio del vento proprio fortissimo. Sto dicendo, qui il vento ha soffiato almeno minimo a 120-130 all'ora, eppure non gli ha fatto niente alla canna da pesca. Poi io l'avevo tinta, l'avevo fatta bianca, proprio per rassomigliarsi alla Game Master, no? Poi la bobina che c'è il originale, il filo è rosso, è un cavo coaxiale rosso, ha ribellato un altro isolante rosso e l'ho preso tutto attorno. Tu la guardi da fuori e sembra la filmata originale, perché è camuffata, capito? Fatto bene. E vabbè, poi da giù non è che si vede, andate in affitto. Interessante che vada da voi. Questi gingilli li fai tu, li fai per un'altra soddisfazione, ma non è che siano cose necessarie. Questa cosa mi attira perché non c'è radiali, a me i radiali mi rispaccano sempre le cornacchie, è quello che c'è, se non trovano i radiali non si calano, capito? Si calano su quello del televisore. Quello è, no, lo devo dire che quando c'avevo una moto battubo io sono arrivato a vedere cinque gabbiani, i piccioni, sul coso, sul radiale, già. Eppure ho visto che non l'hanno rotto, anzi non l'hanno nemmeno piegato. Devo dire questo, era pure un'azienda, era piazzata almeno 3-4 anni, era piazzata, adesso è 2 anni che non è più piazzata, per dire, no, eppure non è successo niente. Anche il piattello, tu guarda adesso quella fotografia che ti ho mandato, il piattello dove si vanno quello sotto, è lucidissimo, non è arrugginito, no, vanno bene. Devo dire che va bene, quella carota nera che c'è, quella è il vetro rigido, non è una semplice plastica così che al calore del sole si sciuglie, no, quella è anche quella carota, è il vetro rigido, e i radiali sono infilati in quella specie di sere che ha la carota che poi è fissata sotto dalla piastra con i bulloncini passanti in corso. Quindi vedi, quello che avevo cambiato tutti io, i bulloncini avevo messi in acciaio inossidabile, perché quelli che hanno dato, o che danno loro, sono di corso, sono di verrubiccio, e io poi avrei la possibilità di svoltare di nuovo, io li avevo sostituiti quei bulloncini. Sì, batteria, anch'io nella mia amante me l'ha fatto così. Le fasce completamente, le fascette sono in cosa? Sono in acciaio. Acciaio. E comunque quando la cosa è vecchia, nel buco di va. Se 17 anni normale che si sia invecchiata l'antenna, no? Anche se l'ho scesa una volta per ripristinarla con Fabrizio, l'abbiamo fatta tutta bene e cose, però poi riprende Sarsini, trovi le gocce col sale, cazzo, addirittura arriva il sale dal mare quando c'è maestrale. E tu immagini anche la stella che avevo io prima, sai chi era? Era di coso, come si chiama? Di Moreda. Non la buona, non me la metto lì come si chiama. Vabbè, dai, mi ha capito. Moreda, l'animatore. Se l'aveva piazzata lui a sacro cuore. Se l'aveva data lui quella. Insomma, con l'antenna ha funzionato 30 anni, come minimo già. Eppure qui alla fine è 1-1 ne so con i radiali, perché però quelli erano sottili, i radiali più corti, ma molto più sottili. 7 mm appena, anziché 10 mm di diametro. 7 mm. E ce n'erano 16. Non uno, 16. Quando poi sono arrivati alla fine ce ne sono state 4-5 e allora l'ho tolta l'antenna e ho cambiato, ecco, tutto lì. E Andrea Oceano, Andrea ho capito Oceano, che abitava in viaggiotto prima, non a Sacro Cuore. Cosa ti volevo dire? Io ti posso dire una cosa, che se quando i radiali erano gli originali, quelli in vetroresina, non me li hanno mai troncati. Da quando ho messo quelli d'alluminio, sia i pieni che i vuoti, li hanno sempre spezzati. E quelli in vetroresina erano vetrificati, li ho buttati per quello. Pensando di fare del bene, invece potevo pulirli e utilizzarli di nuovo. Sì, quello sì, è vero. Beh, io quella in vetroresina ho avuto l'antenna Grand Prix, che c'era la metà in vetroresina, la metà in alluminio pieno, però si avvitavano direttamente, non erano fissati tramite burricino, si metteva nel foro, si tirava lo stivo, si girava il radiano, girava e si avvitava, lo stringeva con una chiave da 10 mm, una cosa del genere. Quello non si sono mai avuti, però erano inclinati quelli lì, i radiali erano inclinati, non erano dritti a 90 gradi come ad esempio la volta Batumbo e come era la stella. Quelli della stella erano lo stesso dritti, non erano inclinati verso il basso, e così anche la volta Batumbo, rimangono dritti. L'ho avuta anche io quell'antenna lì, Giulio, era della Lem, era in batteva pure un bel quell'antenna lì, me lo ricordo, la larga arrivavo a Santiago 95 con quell'antenna dal Sacro Cuore, ce l'avevo montata al Sacro Cuore, praticamente c'aveva il radiale 2,75 lunghi a parapioggia, a ombrello rimaneva, però quella che avevo io, i radiali erano corti, 70 cm già, solo 70 cm, però ce ne aveva 16, ne aveva 16 i radiali, non erano 4-5 o 7-8, no, erano 16 radiali, tutti da 70 cm, dunque ce ne erano tanti, veramente. Ma uno poi tutti quanti ne sono caduti, si sa, ma ripeto, radiali grossi 7 mm di diametro, mentre invece la mantobatubo è 10 mm, è diverso il discorso, è molto più robusta. No Giulio, non mi hai capito, io sto parlando della Grand Prix, ho detto che ha avuto la Grand Prix eccetera eccetera, ce l'ho avuta anche io quella lì, ed era anche buona come antenna, era della Lem. Sì, anche io ce l'avevo nella Lem, non avevo capito che era la stella, anche io avevo la Grand Prix e quattro radiali inclinati della Lem, metà in resina, metà in alluminio pieno, e ce l'avevo piazzata nella ringhiera del poggiolo di casa dove abitavo prima, e l'antenna usciva appena fuori dal tetto, ma poco lì, da tu immagini che la motovana del tetto la superava, se no massimo un metro, cioè lo stivo centrale usciva fuori un metro, una cosa del genere. Eppure nonostante tutto, con quell'antenna io parlavo addirittura con l'Isola d'Elba tutti i giorni, tutti tantissimi giorni io, Ivan di Osimo, il venditore di mobili, non Magatia, no, Osimo era un rappresentante, cosa era questo qui, e vendeva mobili, e questa ragazza del divorzio di Solerba in Toscana, tutti i giorni, inverno, estate, in qualsiasi momento, basso però arrivavo. Era una buona antenna quella lì, anche se non era 5 ottavi, ma era una buona antenna. Quella lì poi io l'ho venduta seconda mano, l'ho venduta a Angelo Asso di Porto Torre, se me lo ricordo ancora, ma non avanno, 30 anni fa. Figurati, no, era una con quattro d'onda appena, non era una grande antenna, però andava bene, andava molto molto bene. E un'altra antenna che andava bene allora era la Bastardaster, non la Stardaster, c'erano due tipi di antenne, c'era la Stardaster e la Bastardaster. Cosa ce l'avevo? Ce l'aveva Mario Rubi, ce l'aveva, io mi ricordo Mario Rubi faceva dei collegamenti eccezionali, perché va bene che lui abitava su in alto, praticamente a livello del vialotto del Monte Rosello, lui abita lì in alto, abita, per cui da lì usciva che era una meraviglia, e aveva quell'antenna lì, aveva, poi aveva anche un ricevitore, l'aristocrate aveva, sì, uno ricevitore aveva. E dunque io me lo ricordo, io avevo fatto dei lavori a Mario, a casa di Mario, al padre, e dunque la conoscevo bene quell'antenna e quella stazione di Mario. Era il periodo di Lucchetto, Mario Rubi, li conoscevo tutti io perché frequentavo a Radio Club Nord Sardegna, via Luzzatti, e venivano tutti lì. Lo so che venivano tutti lì, lo so, no, io non ci andavo mai, sono andato un paio di volte e basta, non ci andavo mai in quella associazione lì, in quella sede. Infatti non è che ho conosciuto molte persone lì, qualcuno così, però non più di tanto, perché non ci andavo mai, ecco, non, anche perché non avevo il tempo di andarci, lavoravo la sera, rientravo a buio a casa, figurati se avevo io il motivo di andare lì, come non andavo nemmeno quando l'ha fatta Torre Dai la sede, e chi ci ha mai andato, sono andato una volta, due volte, ho visto la situazione com'era, per esempio la pura della birra in Antelomanco, e boh, basta, non ci bevo più, questa cosa non andava. Io non sapevo manco che l'avesse fatta Torre, figurati, ma lì ne ho conosciuto diversi io. Ho conosciuto Giulio Colombano, che era presidente, poi ho conosciuto Macallè, ho conosciuto a Mario Mao, a cosa ti posso dire, tutti quelli vecchi, dai, che molti non ci sono più, poi che avevo conosciuto, e tanti, Radio Antonella, ma c'erano anche molte donne. Sì, è vero, Antonella qualche volta veniva anche a salutarmi in bottega mentre lavorava, se non lo ricordo. Sì, e sempre quando veniva anche qualche paio di volte, venuta anche sempre a salutare, no? la moglie di Coso, come si chiama? Di Dario Tinnico, che c'è su via Venezia, via Equa, via Venezia, sì, la chiamatore, no, perché mai così. Laura, anche lì passava, abitava lì a Monte, di che ti vuoi immaginare, dunque quando gli veniva di passaggio, quando passava lì mi si fermava a salutare. Sì, beh certo, Mario Mao abitavamo vicino di casa, è stata lì che abitavamo vicino di casa, tu pensa, senza, allora in quel periodo, in quegli anni lì, c'era, quando c'era, eravamo appena subito dopo la guerra e c'era un po' di fame, c'era in quel periodo, e tu non immagini nemmeno quante pentole di pasta e fagioli o di minestrone mia madre gli ha portato a quella casa lì, dove appunto abitava in famiglia, no? La famiglia di Mario Mao, perché abitavamo vicino, lì nella zona Santa Polinare, capito? E io a Mario sono andato anche a trovarlo quando è morto, lo sai, l'ho visto morto. No, io non l'ho potuto vedere in quel periodo, perché ero ricoverato per l'appendicite o Gianni, non l'ho potuto vedere io, l'ho saputo. Come non ho potuto vedere nemmeno a Emanuele Piana, fosse un pirato, anche quando è morto Emanuele ero ricoverato lo stesso, sono stato dimesso due giorni dopo che era già morto Emanuele, infatti io siccome veniva sempre da me Emanuele, no? Anche Mario Mau veniva sempre insieme a Gio Maria, insieme a Luna Rosa, passavano così la mattina, no? Si mettevano un giletto e tante volte passavano da me. E stavo dicendo, sono andato da Laura, la figlia di Emanuele, e l'ho chiamato, siccome diceva c'era la porticina chiusa nell'ingresso, no? L'ho chiamato e si è affacciata Paola e si è avvicinata al cancello, si è avvicinata e dice Emanuele è morto. Come è morto? Sì, è morto 2 giorni fa, abbiamo fatto il funerale. Io non lo sapevo, ero ricoverato in ospedale, Olga. Era morto 2 giorni prima, da poco, quindi. Allora, 2 giorni prima avevano fatto il funerale di Emanuele, e io non lo sapevo. E tutti quei galassi che ci aveva, chi le hanno dato? Ma Laura mi ha detto che è venuto un parente da continente, da cui è venuto, non so chi sia stato, si ha portato via tutto. Si è portato via, poi non so cosa dice, quello che mi ha detto che sto dicendo, non so se era un parente o se era qualche persona che si conosceva e gliel'ha venduto, questo non te lo so dire. Ecco. Perché ne avevo regalato anche uno io di Galaxy, che era, vabbè, gliel'ho regalato per pizzi e poi lui ha detto che se l'aveva aggiustato, ma non ci credo. Quello lì non se l'ha aggiustato, secondo me l'alimentatore ci voleva esterno, perché l'alimentatore era da cambiare. Basta, non c'era niente da fare. Ma lui si aveva comprato, il Galaxy di Gio Maria si aveva comprato, me lo ricordo, 500.000 si aveva comprato, il Galaxy di Gio Maria. Aveva come 500 euro, non mi ricordo se c'era l'euro, forse c'era ancora la lira, c'era. Se aveva comprato quello, se aveva comprato. E quando gli hai dato tu, ce l'aveva anche quello, ma non credo che l'avesse aiutato quello. Poi aveva il 7B, aveva una radio che arrivava fino agli 80 metri, quello era di Mario Mansell, che era passato in mano a più persone e non erano riuscito a aggiustarlo. L'hanno dato a lui se l'aveva aggiustato. Dopo che l'ha aggiustato, quando l'hanno sentito, Mario Mansell l'ha voluto di nuovo e lui gliel'ha restituito. Sì, te lo restituisco perché no. E gliel'ha restituito. Però l'aveva riparato lui, quello, lui personalmente, perché lui era il tecnico. Ma ne aveva dei diverse, ne aveva di cose, poi aveva il TS2000, il TS2000 nuovo, 2700 euro avevo pagato, quello lì, perché quello non l'avevo fatto arrivare io, cioè 2007, cosa devo dire, 2007, no, forse dopo, no, boh, ma la testa sono confusa, non mi ricordo com'è. Comunque il 2007 è sicuro, il numero 2007 non mi ricordo se era con l'euro o se era con la lira, ma forse era con l'euro. Ma non l'ho fatto arrivare io, era arrivato da me. 1500 subito gli hanno lavorato in anticipo, spediti subito, e loro gli hanno spedito la radio. All'arrivo alla radio, il nostro edizioniere si ha preso altri 700 euro, si ha preso. Altre 1000, insomma è tutto 2700 euro a pagare. Sì, me lo ricordo, era da te la volta che te l'aveva chiesto se li ordinavi. Me lo ricordo che tu gli hai ordinato quell'apparecchio. E vabbè, le cose finiscono, la vita finisce un po' così per tutti. Ma di Angelo sono andato a vedere poco fa, ho trovato le sue fotografie, ma non ho trovato che era morto, quello lì non l'ho trovato. Ho trovato tutte le sue fotografie, la scuola che ha fatto, Alessandria, eccetera, tutto quanto, però non ho trovato la scritta come lui era morto. Sì, leggi, apri le pagine e vedrai che lui c'è scritto che è morto, sì, purtroppo poveracci, che poi era anche lui un dirigente di una squadra sportiva, non so se era di calcio o cosa era, non lo so. molto, forse una squadra di calcio, che tra l'altro anche lui credo che giocasse come, come degli amatori, di quello, perché era una squadra di amatori, capito? Sì. Ah no, ma se tu leggi, se hai pazienza di leggere tutto, vedrai che dello studio la pagina dove c'è scritto che è morto, se ricordo bene, il 13, mi sembra, o il 17 di settembre, del 2018. Per cui è così, vabbè, dai. E che 2000 di Emanuele, quando era arrivato in Cibino l'entrava, non entrava, voleva aperto, voleva. Allora cosa ho fatto? È venuto da me, me l'ha detto qui Giovanni, aspetta che telefoniamo. Ho telefonato, mi ha detto, se non ti preoccupare, Giulio dice, se non ti preoccupare, ti mando subito lo schema, ti mando, è così, è facile, te lo fai tu. Va bene, d'accordo, beh, tu non ci crederai. In due giorni c'era lo schema a tratta lì, tramite posta, no? Tu l'ha detto Emanuele, Emanuele subito l'ha aperto e se l'ha aperto lui. E funzionava anche in Cibino. Ho capito, e vabbè, qualche cosa di base ce l'aveva anche sui baracchini, anche se lui era radio TV, io me lo ricordo dove lavorava, era radio TV lui, ma baracchini non penso che ne aggiustasse. Ma se tu gli hai un progetto a un vero tecnico, non sa dove mettere le mani, già lo vede, se gli hai lo schema sa cosa deve fare, no, quello sì, certo, se gli dai un apparecchio senza schema non lo poteva riparare, perlomeno, può riparare un televisore, poteva riparare un televisore, una radio, uno stereo, un registratore, queste cose qui sì. Però magari un ricettore-mettitore, non avendo mai trattato quel sistema di lavoro, non era pratico molto. Però se gli dai lo schema elettrico, lui lo apre, quando guarda dentro, vede lo schema elettrico, e lo schema elettrico ti dice come devi fare, e te la fa, questi sogna. Fai come quello che c'era in via Montello di fronte alla Elettrauto, te lo ricordi Costanzo, quello che aggiustava televisori eccetera eccetera? Sì, che me lo ricordo, e poi lavorava da Ico lavorava in Vianura, no? Anche Ico era un coso, era CD anche Ico, no? Dopo magari un po' di tempo ha mollato Baracchino, però era lui il padrone del laboratorio. E Costanzo lavorava per Ico, no? Lavorava. Non mi ricordo come si chiamasse a Baracchino Ico, boh, perché se lo ricorda più. Non ricordo Ico. Ico, io ne ricordo uno, Ico che era di Carica però. No, Ico che di casa abita ancora adesso, su a Monte Rosello, praticamente vicino dove c'è la campagna di Natalino, lì su, dove abitava Emanuele stesso, perché Natalino con Emanuele erano confinanti di campagna. No, non me lo ricordo. Sì, vabbè, comunque... cosa ti stavo dicendo, non mi ricordo più. Vabbè, ma già lo conosci, secondo me già lo conosci. Vabbè, che poi tra l'altro è lo zio di Davide, quello dei pesciolini. Ho capito. Davide. Sì, ho capito. Appunto, sicché. Vabbè, dai. Quante ne sono passate in frequenza. Adesso che siamo quattro gatti, bubu. Stavo dicendo, quando tu succede di frate, il modulo abbassa attenuare, no? Metti in funzione l'attenuatore e gli frate non dovrebbero darti fastidio. Vabbè. A meno che non ti fanno battimento zero. Se ti fanno battimento zero, allora il discorso è diverso. Perché allora lo sentiresti anche. Però se allora ti abbassi, allora non li senti praticamente. Li senti ben poco, li senti pochissimo. Io gli splatter li prendo solo con la Fayette, tutti gli altri non ne prendo, tutti gli altri apparecchi che ho non prendo lo splatter. Io già sono tranquillo per quanto riguarda gli splatter, sono solo. L'altro è Walter, da quella parte, ma Walter veramente entra in 27, per cui non ho... Anzi, è lui che sente a me quando io sono nell'altra parte, l'altro giorno, lui era, non mi ricordo, forse era sul 20, era facendo delle prove insieme a qualche altro amico, e ha sentito lui, però glielo segnalava uno strumento che ha lui, no? Che c'era una portante in aria, e dunque è passato sul 10 per salutare, e dunque si è fermato un attimo, ha salutato, ce n'è andato. E che io ho visto qual è il nome dello strumento, ma non mi ricordo come si chiama. Gli altri li prendono da me, ma non li do, non li danno a me. Con gli altri apparecchi li prendo, ma con la file, col coso, col Midland, con la LAN 48 li prendo io, capito? E quello è il problema. Mi sa che adesso chiudo e vado a portare il cane giù, perché sono già le 8, Giulio, il dovere mi chiama. Ci sentiamo domani, buona serata, buona continuazione e buon tutto. QRT per me, esecutivo, ciao. Ok, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Grazie per la chiacchierata, ciao, chiudo anch'io.